8:50 minuti, una manciata di secondi, ci mancano ancora per arrivare alle 9, siamo addirittura in anticipo questa mattina per il nostro Pensatech. Non sono da sola questa mattina, accanto a me c'è Elisabetta Tola, buongiorno. Buongiorno Damiana, buongiorno a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici. E dall'altra parte del vetro, come di consueto, Marco Boscolo, buongiorno. Buongiorno a voi e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Vi abbiamo già anticipato poco fa e questa mattina andiamo dall'altra parte del Mediterraneo, andiamo a vedere quello che è stato il ruolo dei social network e della tecnologia e di internet nelle insurrezioni arabe, ma anche quello che poi ne rimane, qual è la situazione attuale. Infatti, però, prima di andare dall'altra parte del Mediterraneo, Damiana, e prima quindi di avventurarci e fare un ragionamento, dicevamo nel nostro Twitter poco fa, a bocce ferme, mica poi tanto, perché appunto ci sono situazioni come quella siriana ancora molto mosse, e peraltro proprio ieri in Siria c'è stato uno shutdown completo della rete in alcune zone, quindi sappiamo che evidentemente i tentativi, o meglio, insomma, si può pensare che i tentativi di controllare l'informazione in rete sono ancora molto vivaci in certe zone dove appunto i movimenti continuano. Però prima di andare lì, io darei la voce al nostro Marco al di là del vetro per un aggiornamento che non ha a che fare con Twitter ma con la tecnologia. Sì, con la tecnologia sì, perché c'è una notizia di servizio per tutti coloro che si stanno per mettere in movimento. C'è un'ANSA di pochi minuti fa che segnala che a causa di un tentativo di furto di rame sulla linea ferroviaria dell'alta velocità tra Milano e Bologna avvenuto la scorsa notte, ci sono dei forti ritardi sulla linea tra Bologna e Milano, e in particolare il Twitter FS News, quindi il Twitter ufficiale che dà le informazioni di Trenitalia, segnala che ci sono ritardi di circa 15 minuti sulla tratta alta velocità tra Melegnano e Parma, appunto a causa di un importante furto di rame, e però ci segnalano che stanno già intervenendo per ripristinare insomma la normalità. Questo è insomma l'aggiornamento più recente, che è di circa 6 minuti fa. E quindi furti di rame che continuano a imperversare sulla rete ferroviaria italiana, e qualcuno prima qua fuori del nostro studio diceva hanno rubato la Bologna-Milano, e in effetti l'altro giorno avevano rubato qualcos'altro. I furti di rame però magari ce ne occuperemo in una delle prossime puntate, sono veramente un enorme problema. Diamo i contatti, Damiana. Sì, allora ovviamente i nostri consueti contatti sono l'SMS, il 348-7649-289, la mail la conoscete, diretta a @radiocittadelcapo.it, ma ovviamente Pensatech non può non avere anche dei contatti sui social network, allora Twitter @Pensatech con il CH, ma anche la pagina Facebook di Radio Città del Capo. Scriveteci e diteci anche cosa ne pensate voi di quello che di cui stiamo discutendo, insomma vi siete fatti un'idea di quello che è stato il ruolo dei social network nelle rivolte arabe? In particolare io sarei curiosa di sapere se qualcuno le ha seguite nel periodo, se ha seguito per esempio quello che è successo in Tunisia, quello che è successo in Egitto attraverso Twitter, come l'ha seguito, se ci fate sapere chi seguite, se vi siete fatti per esempio una sorta di selezione tra le fonti, e come secondo voi appunto questo mezzo, ci concentreremo particolarmente su Twitter proprio per la sua rapidità e capacità di espansione e di diffusione, ha potuto raccontare quello che avveniva appunto in questi paesi. Ecco, allora proprio a proposito di Twitter, siccome qua pensate che non diamo mai niente per scontato, andiamo a vedere che cos'è Twitter, uno dei social network più famosi. T come Twitter. Twitter è una rete informativa costituita da messaggi di 140 caratteri chiamati tweet. È un modo nuovo e semplice per scoprire le ultime notizie, ciò che sta accadendo, relative ad argomenti che ti interessano. Questa è la risposta alla domanda che cos'è Twitter nella sezione di aiuto del sito twitter.com. L'uccellino azzurro che trovate come icona su tanti siti web, e non solo, è il logo di Twitter, che in inglese significa appunto cinguettio. Questo servizio è nato nel 2006 a San Francisco, ed è ora usato da centinaia di milioni di utenti in tutto il mondo. Si può accedere a Twitter tramite un computer, uno smartphone o un tablet collegati ad internet. Ma per inviare i propri micromessaggi nella rete si possono usare anche gli SMS. Proprio questa versatilità ne ha decretato il successo. Il mondo dell'informazione ha trovato con Twitter nuove vie per scoprire e diffondere notizie. Per non smarrirsi tra i cinguettii, bisogna imparare a conoscere il gergo di Twitter. La conoscenza del significato di due simboli è veramente indispensabile: il cancelletto e la chiocciola. Il cancelletto trasforma le parole in hashtag, cioè parole chiave rintracciabili dal motore di ricerca di Twitter. Sia che cerchiate o che diffondiate informazioni, la scelta dell'hashtag giusto è quindi fondamentale. La chiocciola, che precede una parola, identifica un utente. Permette di cercare persone su Twitter o inviare ad esse i propri messaggi. Provate ad esempio a scrivere a @pensatech con l'H finale. Provate a scriverlo e scriveteci, perché vogliamo sapere anche voi come utilizzate questi strumenti. Infatti non è la prima volta, cioè non è certamente la prima volta che lo citiamo, è forse la prima volta che andiamo un po' a fondo nell'analisi di questo strumento, ma lo faremo altre volte, perché è uno degli strumenti che in questo momento anche noi a Pensatech utilizziamo per tenerci connessi con chi ci ascolta e anche con così le nostre fonti di informazione. Ma andiamo proprio lì. Sì, facciamo una virata, perché ci occuperemo adesso del luogo che ha dato un po' il via a quelle che sono state le cosiddette primavere arabe. Andiamo quindi in Tunisia, in cui c'è stata più che una cosiddetta Twitter Revolution, una Facebook Revolution, perché era in quel momento il social network meno colpito dalla censura, è quello che ha permesso l'estendersi delle informazioni per il paese. Andiamo a parlare con Fulvio Massarelli. Abbiamo intervistato Fulvio Massarelli, che è l'autore di un libro che si chiama La collera della Casbah, che raccoglie una serie di interviste proprio ai protagonisti della rivolta tunisina. Queste interviste raccolte durante la cosiddetta seconda Casbah, quindi nella seconda fase della rivolta tunisina. Fulvio Massarelli, ricordiamo, è anche un mediattivista di InfoAut, ma è stato anche collaboratore del Manifesto, proprio per seguire dalla Tunisia, da Tunisi ma anche dalle altre città della Tunisia, quelle che sono state le evoluzioni dall'altra parte del Mediterraneo. Proprio lui abbiamo cominciato chiedendo se si può parlare di Facebook Revolution. Vediamo cosa ci ha risposto. Facebook Revolution è stata, come dire, una targhetta regalata dall'Occidente al processo rivoluzionario tunisino, perché se abbiamo un po' l'accortezza di ascoltare cosa dicono i protagonisti e gli attori della rivoluzione tunisina stessa, non ascolteremo mai la parola di Facebook Revolution. Al contrario, però, ascolteremo dalle loro voci, dalle loro narrazioni, che ho avuto modo anche tempo fa di raccogliere lì in Tunisia, a Tunisi e anche in altre città del paese magrebino, ecco, ascolteremo dalle loro voci l'importanza che hanno giocato i social network sia nelle giornate poco precedenti la fuga di Ben Ali che nelle giornate di lotta che si susseguono ancora. Social network, in modo particolare, questo è vero, Facebook, che anche durante gli anni della dittatura riusciva ad essere uno spazio di confronto dove in un modo o nell'altro i tunisini riuscivano a comunicare e anche a confrontarsi politicamente contro quella che era la terribile dittatura di Ben Ali. Subito dopo l'immolazione di Mohamed Bouazizi del dicembre del 2010, Facebook, oltre ad essere uno spazio di confronto con cui i tunisini cercavano di sfidare la terribile censura del regime, diviene effettivamente uno spazio di comunicazione del processo rivoluzionario stesso, perché la foto di Mohamed

di espressioni vengono continuamente compromesse. Faccio riferimento ad esempio a Takriz, che è un collettivo di cyberattivisti storici per la libertà in Tunisia, che è stato immediatamente bannato dall'ATI, che è l'agenzia di controllo della transizione democratica della rete in Tunisia, ma non solo. Si parla anche di ragazzi come dire, che disegnano un po' sui muri e poi amano riportare anche le foto delle loro opere d'arte, dei propri graffiti su internet, che molto spesso vengono attaccati, insomma, dalle agenzie di controllo, ma non solo l'ambito giovanile, ma anche l'ambito politico torna a essere al centro sia della repressione su internet, ma dall'altra parte anche come dire, la voglia di continuare a lottare per la libertà di espressione in Tunisia va avanti. Insomma, si diceva in Siria, però appunto anche nel Maghreb la situazione è in perenne evoluzione. Questo, come ci diceva Fulvio, ha gli effetti anche sul web e sulla censura del web, che in qualche modo comunque continua. Infatti continua, ed è per questo che noi vogliamo restare, diciamo, sul pezzo e continuare a seguire quello che succede in queste zone, facendolo come siamo più capaci, cioè parlando con le persone naturalmente che come Fulvio sono presenti, conoscono molto bene la situazione, ma anche seguendo proprio quello che sui social media appare. Ecco, a questo proposito, Damiana, questa battuta del "hai un proxy", tu hai un proxy da darmi? Per guarda, accedere. Qua in tasca in questo momento no, forse l'ho lasciato di là in redazione. È qualcosa a cui noi spesso non pensiamo, ed è il fatto che noi abbiamo un certo grado di libertà, anche se non siamo un paese ai vertici per la libertà di espressione, abbiamo un certo grado di libertà nell'accesso alla rete, e questo fa sì che non ci preoccupiamo tanto di come accediamo alla rete. In realtà, appunto, essere in qualche modo anonimi, poter usare degli indirizzi di accesso alla rete che non siano quelli del computer riconducibile a noi, e quindi nel consegnarci poi nelle mani di un sistema che evidentemente ci controlla, è una chiave, come diceva giustamente Fulvio, per aggirare la censura. E quindi poter usare degli altri proxy, quindi degli altri indirizzi di accesso, è una delle strategie proprio per cercare di restare in rete senza per questo essere appunto poter essere arrestati o addirittura, come abbiamo saputo nel corso dei mesi più caldi delle rivoluzioni in questi paesi, addirittura sparire proprio dalla rete, ma anche dalla propria vita, insomma dalla propria vita di tutti i giorni, quindi essere arrestati e ovviamente detenuti. Per evitare proprio questo, aggiungiamo anche un altro elemento: anche Anonymous ha avuto un forte ruolo nelle cosiddette primavere arabe nel mondo del web, tra l'altro in una veste anche innovativa, perché oltre che in contemporanea con le manifestazioni colpire i siti governativi tunisini, ha sperimentato proprio, come dicevi tu, il ruolo di mantenere dei cosiddetti canali liberi, in modo che anche laddove la censura colpisce si mantengano comunque dei canali con cui queste persone possono comunicare. Il caso egiziano poi subito dopo è stato eclatante, perché lì si è spento proprio per un certo periodo, tra l'altro caso più unico che raro, internet è stato spento in tutto il paese. Ecco, anche in quel momento, grazie ai canali creati dagli hacker di Anonymous, gli attivisti egiziani hanno potuto continuare a comunicare. Insomma, di Anonymous ne parleremo probabilmente anche certo. Altri casi, però appunto l'OP Tunisia è stato sicuramente centrale nella loro storia, addirittura hanno anche abbandonato alcune campagne per potersi dedicare a questo. E anche ieri Anonymous twittavano, c'erano parecchi retweet sulla rete per dare indicazioni di dial-up e punti di accesso invece in Siria. Come dicevamo, ricordiamoci che ieri c'è stato lo shutdown in alcune zone della Siria. Ecco, io prima di passare al prossimo ospite che abbiamo intervistato, anche per mettere in contesto un po' le cose e naturalmente non essere, questo è un po' anche lo spirito di Pensatech, sempre solo entusiasti rispetto all'uso delle tecnologie, ma anche un pochino critici, vorrei segnalare due articoli, li stiamo anche twittando, Marco sta twittando forsennatamente al di là del vetro, due articoli che sono stati scritti da dei colleghi, un post sul blog Piazza Vittorio di Giovanni Spataro sul sito delle scienze. Giovanni Spataro ha partecipato al convegno mondiale di giornalisti scientifici l'anno scorso che si è tenuto a Doha, doveva essere in Egitto e poi proprio per quello che stava succedendo in Egitto è stato spostato a Doha, e anche lì all'inizio diciamo c'era questa forte testimonianza di vari attivisti che dicevano: usavamo Facebook per programmare la protesta, Twitter per coordinarla, YouTube per raccontarla al mondo. In realtà nello stesso incontro poi c'è stata anche un'analisi più critica e c'è stata anche la presentazione di alcuni dati da parte della Dubai School of Government. Ha presentato un report, l'Arab Social Media Report, in cui si vede invece che i dati di accesso alla rete e soprattutto ai social, Facebook e Twitter, sono molto bassi tutto sommato in questi paesi, e invece sono dati che ci fanno pensare che ci sia un gruppo tutto sommato ristretto di persone che usa questi mezzi e che naturalmente amplifica, ecco, l'informazione, e semmai si integra, come sentiremo anche dalle parole di Tiziano Bonini, si integra molto bene poi con i mezzi più tradizionali. Forse vale la pena di ricordare che per esempio Al Jazeera ha fatto un intenso uso di Twitter e Facebook come fonte di quello che stava avvenendo nelle strade, quindi forse non è soltanto diciamo un tipo di comunicazione orizzontale che va da una parte all'altra, ma invece c'è anche poi un'integrazione fra i social, anzi sicuramente tra i social e i mezzi tradizionali. Io però qui darei proprio la parola a Tiziano Bonini. Tiziano Bonini è un esperto di comunicazione digitale, di nuove tecnologie, lo sentiamo anche spesso dalle frequenze di Popolare Network, chi si collega in streaming, perché parla di tecnologia anche lì, è anche collaboratore di Radio 24 ed è ricercatore allo IULM di Milano. Tiziano Bonini ci ha aiutato a fare appunto, a inquadrare un pochino questo fenomeno, e la prima cosa che gli abbiamo chiesto è proprio questa: si può parlare di Twitter Revolution oppure è appunto una definizione un po' troppo entusiastica? Allora, sicuramente la risposta a questa domanda per me è sicuramente sì, cioè ha giocato un ruolo. Dopodiché, se la domanda fosse: è stata una rivoluzione di Twitter o di Facebook? La risposta è no. Nel senso che dovremmo cominciare ad affrontare questa cosa in maniera un po' più laica, secondo me, perché parlare di una rivoluzione tecnologica, cioè di una rivoluzione sociale determinata effettivamente soltanto da un mezzo tecnologico, questo è molto pericoloso ed è molto facile farlo, e soprattutto ha un atteggiamento un po' determinista che è veramente molto semplice e semplicistico. Però quello che si può dire è che non solo Twitter è stato molto utile, ma in generale tutte le rivoluzioni, tutti i movimenti sociali, se guardiamo se diamo un occhio al passato, sono state supportate dal nuovo medium dell'epoca. Adesso faccio una brevissima excursus storico, certo, per spiegarmi meglio, no? Perché se ci pensiamo bene, cioè anche il movimento, Lutero, Martin Lutero, è stata una rivoluzione della stampa in qualche modo, ha usato la stampa, i caratteri mobili dell'epoca, il libro per diffondere più velocemente le sue teorie. La rivoluzione francese usava i giornali e i pamphlet per diffondere le proprie idee. Nel 68 a Parigi c'erano le radio a transistor, che hanno giocato un ruolo importantissimo nella diffusione delle notizie, degli spostamenti, per l'organizzazione logistica di piazza. Nella rivoluzione iraniana del 79 c'è un libro meraviglioso sull'uso dell'audiocassetta da parte degli small media, da parte dei rivoluzionari. Nell'89 la Pantera, il movimento studentesco italiano, alcuni la chiamarono una fax revolution, no? O ancora, non so, penso a Seattle nel 99, era un movimento che si è organizzato tramite mailing list, forse la prima vera rivoluzione di rete o di network. Quindi secondo me accade che ogni movimento sociale usa il mezzo che in quel momento ha a disposizione e di cui detiene in qualche modo il controllo, perché la cosa interessante che è accaduta in Tunisia ad esempio è che stava nascendo una generazione, sicuramente un processo generazionale per certi versi, perché Ben Ali aveva investito in internet, internet si stava diffondendo di più soprattutto tra le nuove generazioni, costavano di meno gli accessi, si stava ampliando il bacino delle persone che lo usavano, ed è su quella rete che ha viaggiato l'informazione, banalmente, perché in quel momento storico c'era quella rete lì. Ecco, in quel momento storico c'era quella rete lì, quindi a ogni fase storica, a ogni rivoluzione la sua tecnologia, ma come sentiremo ancora fra un attimo dalle parole di Tiziano Bonini, poi appunto è difficile isolare il contributo della singola, del singolo mezzo di comunicazione, in questo momento in particolare perché i mezzi di comunicazione sono tanti. Sentiamo ancora Bonini. Il problema è che spesso parliamo di social network, però in realtà bisogna parlare dell'ecosistema dei media che orbitava intorno alla Tunisia in quel periodo, perché sicuramente Twitter e Facebook, probabilmente YouTube, perché i video venivano messi su YouTube, le foto venivano fatte e venivano messe sui blog. Twitter e Facebook hanno semplicemente facilitatori, hanno fatto sì che queste immagini, che questi eventi, che persone bypassassero i centri tradizionali dei media e viaggiassero da sole. Ma perché siamo una società che già funziona in qualche modo in formato di rete, certo, più che tradizionalmente con i media che arrivano sull'evento e poi in realtà questa volta sono stati i media di tutto il mondo e anche i media locali come Al Jazeera che hanno ripreso i contenuti che venivano generati dalle persone in piazza. A differenza, ad esempio, non so, della velocità con cui si propagavano i Samizdat durante la Russia sull'Unione Sovietica e i tweet, è chiaro che l'informazione, qualsiasi forma di informazione, di controinformazione, con un tweet, con i cellulari, dentro questo tipo di ecosistema molto connesso e fatto di media differenti, di piattaforme mediatiche differenti, è chiaro che ha una velocità molto più ampia, cioè quindi raggiunge più velocemente persone, riesci più velocemente a mobilitare la tua cerchia di amici. È stato sicuramente, come dire, un acceleratore, qualcosa che ha agglutinato le folle, poi non solo le folle in generale, ma stiamo parlando di un'elite digitale anche molto generazionale che ha fatto anche da traino sicuramente. Insomma, queste persone che lo ricordava Bonini si possono occupare delle rivolte da questo punto di vista e hanno anche degli aiuti all'estero, non aiuti economici ma proprio di supporto digitale. Ci arriva un SMS da Stefan che ci dice: infatti il partito pirata tedesco cerca di fornire dei proxy alla resistenza siriana come forma di politica estera moderna. È molto interessante anche questo passaggio, insomma, dal proxy scambiato nell'internet point al proxy scambiato col partito tedesco pirata. D'altro canto i pirati questo hanno come ruolo e da lì sono nati, l'idea di aprire la rete e di renderla più possibile peer to peer. Ecco, un ultimo punto, passaggio dell'intervista a Tiziano Bonini importante, è che naturalmente c'è stato un forte effetto di amplificazione di quello che succedeva in questi paesi da parte delle stesse comunità cosiddette diasporiche, lui stesso le nomina così, cioè le persone che provengono da quei paesi e vivono in altri luoghi, che hanno amplificato, hanno tradotto anche, perché molti tweet o messaggi erano naturalmente in arabo, ecco, e hanno quindi amplificato l'informazione. Quindi noi ci siamo fatti un pochino l'idea che appunto forse quella fosse la rivoluzione, quelle fossero le persone. In realtà poi con quello che è successo nei mesi dopo, anche con le elezioni, farsa o non farsa, sappiamo che in realtà in un certo senso c'era una grossa parte della popolazione che probabilmente aveva una matrice diversa, non era questa elite digitale. Sentiamo quest'ultimo passaggio di Tiziano Bonini. Cioè, chi è attivo su internet, chi produceva contenuti, chi faceva circolare, era soltanto una comunità molto, molto ristretta. E c'è bisogno, come al solito, poi di report, dell'inchiesta, di quel giornalismo di lungo periodo che ti spieghi le cose, no? Perché Twitter è capace soltanto di raccontarti, forse di avere un'idea di cosa sta accadendo in Piazza Tahrir in questo momento, ma difficilmente può darti la possibilità di approfondire. Certo, può linkarti a un video, ma può mobilitare, cioè è molto emotivo come mezzo e funziona molto come narrazione in tempo reale, però poi noi ci siamo fermati un po' lì, ci siamo fermati alla narrazione emotiva e alla retorica della rivoluzione delle nuove generazioni, poi visto che non era così. Tra l'altro in questa sfera spesso noi abbiamo finito per accettare più o meno tutto in maniera poco, poco critica, cioè non abbiamo mai posto a verifica video, immagini, è difficile in questo ecosistema che ha prodotto così tanti contenuti che ci fosse qualcuno si prendesse la briga di verificare davvero la veridicità di quelle immagini, di quelle fonti. In alcuni casi In alcuni casi sono state anche dei veri e propri fake, possiamo dire, chiudiamo così, Tiziano Bonini, che però ci ha aiutato veramente a capire e a mettere un po' in contesto questa cosa. Twitter racconta quello che avviene, ma poi è importante intervenire comunque con una verifica, questo ricordiamocelo un po' sempre. Allora, alle 9:29 minuti, l'argomento è veramente vastissimo, probabilmente ci ritorneremo di nuovo sopra. E allora, ovviamente le interviste le ritrovate poi sul nostro sito rcdc.it con tutti gli approfondimenti e i link necessari per approfondire. Ricordiamo i nostri contatti su Twitter, @ Pensatech con le CH. Marco? Niente, volevo solo segnalare che siamo stati menzionati anche da un account di monitoraggio dell'attività su Twitter, quindi si stanno statisticamente studiando anche a noi di Pensatech. Bene, una buona notizia. Diamo un'altra buona notizia. Riattivata la linea alta velocità Milano-Bologna. Abbiamo parlato di furto di rame, il furto di rame c'è stato, ma la linea è stata riattivata, l'ho reso noto la rete ferroviaria italiana, quindi qui chi è in viaggio può stare tranquillo. Ecco, con questo abbiamo aperto e chiuso il nostro Pensatech di oggi, adesso le notizie di Popolare Network.